Radio 24 Reportage. Vajont, 50 anni dopo. Una ferita ancora aperta. Di Dario Ceccarelli. Il 9 ottobre 1963, 50 anni fa, si consuma la tragedia del Vajont, una delle ferite più profonde della storia italiana. Una ferita che fa ancora male, tanto che si aggiungono nuove testimonianze per conoscere la verità, una verità mai emersa completamente dopo tante bugie e ricostruzioni di parte. I morti sono quasi 2000, travolti da un'immensa ondata d'acqua che, dopo aver scavalcato la grande diga, precipita a valle travolgendo Longarone e diversi altri paesi. Qualcuno lo aveva detto che sopra l'invaso il Monte Toc stava lentamente franando e quella sera alle 22:45 una parte della montagna va giù nel lago, alzando un'onda gigantesca che porta morte e distruzione in pochi istanti. Lo scrittore Mauro Corona vive a Derto, uno dei paesi colpiti ma non completamente distrutti. Il rumore, non c'è, mi dispiace morire senza che l'umanità abbia sentito quel rumore. Non, a parte poi la mancanza di luci, l'indomani morti, c'era una donna impigliata su un albero, mi ricordo che galleggiava, ma il rumore. Lei non so se ha mai trovato dove scaricano un camion di ghiaia, sì. No? Nel punto culminante dello scarico, lei sente un fracasso infernale, bene, ci metta 300 milioni di metri cubi di ghiaia. E mi riproduca il rumore. Sentiamo un'altra testimonianza, quella di un alpino che all'epoca aveva 21 anni, si chiama Lino. La mia prima immagine è stata la desolazione, questo paesaggio lunare, paesaggio tra l'altro che io conoscevo bene perché andavo anche a ballare a Longarone da giovane. Non mi trovavo più, non c'era nessun punto di riferimento, sembrava di camminare nella luna. Qui c'erano solo sassi, pietraie, detriti, travi, morti, corpi, pezzi di corpi, una situazione terribile per un giovane. Non mangiavamo, non bevevamo, i primi giorni proprio passavano così, eravamo inebetiti e poi ci siamo rimboccati le maniche perché non c'era null'altro da fare se non ricomporre questi corpi, cercarli, metterli assieme, portarli via, portarli lungo il viale dove venivano ammassati, allineati. Li portavamo con le portantine che avevamo a disposizione, quando non c'erano più portantine li portavamo con le scale dei pompieri, pietosamente, perché le scale facevano la portantina. Pochi si sono salvati, solo a Longarone si contano quasi 1500 vittime, circa 160 a Derto e Casso, 109 a Castellavazzo. C'è rabbia perché i sopravvissuti che vagano sopra quel mare di fango sanno che per anni si è nascosta la verità. La corrispondente dell'unità, Tina Merlin, ha scritto decine di articoli denunciando le responsabilità dell'azienda elettrica Sade. Sentiamola. Io provai una volta ad aiutare questa gente, ma quelli che comandavano avevano paura anche dei miei articoli. Scrissi una volta un articolo riportando le impressioni della gente di Erto a proposito del pericolo che esisteva nella zona. Mi denunciarono all'autorità giudiziaria perché turbavo l'ordine pubblico. Turbavo evidentemente l'ordine della Sade. Venni processata, ma i giudici mi assolsero con formula piena. Anzi, sentenziarono che quello che avevo scritto era la verità e che il pericolo quindi esisteva. Ma quelli che dovevano salvaguardare la vita di tanta gente non mossero un dito. Adesso la gente piange i suoi morti, però più di tutto odia chi li ha uccisi. Chi li ha uccisi? Già. Non solo la Sade del Conte Cini, ma anche i periti che hanno taciuto per non disturbare i potentati economici dell'elettricità. Franco Polo, guida del Parco Dolomiti Friulano, ci accompagna a visitare la diga. Alta, maestosa, sembra indistruttibile. Da qui, oltre la gola, si vede Longarone. È vicinissima. Franco Poli non ha dubbi. Dico solo quello che ha detto il magistrato Fabbri dopo che hanno fatto le prove a Lione in Francia, con modellino costruito a Lione, perché nessuna università italiana si era disposto. Non era solo prevedibile, era inevitabile. E nonostante questo, l'illusione di poter gestire è la non probabilmente la non volontà di fare una brutta figura per i contratti che si avevano e poi anche la questione degli affari, non hanno fatto niente. La realtà è che in realtà l'uomo è stato estromesso da qui, no? perché se vediamo adesso la frana ha ripreso il suo l'aspetto naturale di un tempo. In realtà è questo, non è solo una frana che ha creato un disastro, ma l'ha creata nella struttura umana della valle, no? Della valle e di questi luoghi, diciamo. Lungarone, spazzata come un fuscello, è tornata a rivivere come 50 anni fa. Conta 4.000 abitanti con 50 aziende, quasi tutte in attivo. Anche la disoccupazione è molto più bassa della media nazionale, ma un problema resta, come spiega il sindaco Roberto Padrina. Chiaro che qui adesso vivono due anime. C'è l'anima dei superstiti, dei sopravvissuti, dei loro familiari, di coloro i quali hanno vissuto sulla propria pelle questo dramma, questo dolore immenso, e dall'altra i nuovi lungaronesi, quelli che sono venuti alcuni anni dopo, che si sono insediati proprio attraverso anche la presenza della zona industriale, quindi i lavoratori all'interno delle nostre aziende, e che ovviamente con difficoltà si sono amalgamati nella realtà che c'era prima, perché ovviamente una comunità quando perde le radici sicuramente ci vogliono generazioni e generazioni perché si formi una sorta di aggregazione. Questo sinceramente è un percorso ancora difficile da poter fare, mentre nelle frazioni che non sono state toccate dal disastro c'è un senso di appartenenza forte al proprio territorio, mentre qui, devo dire la sincera verità, a 50 anni di distanza, quest'anno attraverso alcune iniziative che abbiamo fatto ho ricevuto dei messaggi di miei cittadini che mi hanno detto: beh, finalmente mi sento orgoglioso di essere di Lungarone. Ma torniamo a 50 anni fa, troppi silenzi, troppe bugie per nascondere la verità. Proprio in questi giorni ne è emersa una nuova, raccontata da Francesca Chiarelli, figlia del notaio bellunese Isidoro Chiarelli. Francesca dice che 50 anni fa suo padre avrebbe assistito a un dialogo tra due dirigenti della SADE che avrebbero, per così dire, pianificato a tavolino la caduta della frana. Ma come si dice adesso, il Vajont fu anche un grande evento mediatico. Giampaolo Pansa, giovane cronista in Inviato della Stampa, racconta come scrisse il suo primo articolo. Ascoltiamolo. L'ho scritto in albergo la sera del 10 ottobre a Belluno. Cominciava semplicemente: scrivo da un paese che non esiste più. Questa tragedia orrenda è un capitolo della mia vita, non solo professionale ma anche umana, che non si è mai attenuata. Tieni conto che il 9 ottobre quell'anno del 63 io avevo appena compiuto 28 anni, quindi ero molto giovane anche rispetto ai canoni di oggi. Facevo il redattore alla Stampa e quella notte, mentre stavamo chiudendo l'edizione, è arrivata questa notizia orribile. Il giornale mi ha fatto subito partire per Belluno per fare, diciamo, per affiancare, fare da secondo un inviato speciale di rango, come si stava a dire allora, che era Francesco Rosso. Siamo arrivati la mattina a Belluno, Rosso, che era ben più anziano di me, è rimasto in albergo, io mi hanno portato per fortuna di scarponi, sono andato sul posto e ho visto questa cosa terrificante che poi ho raccontato fin dalla prima sera con un lungo articolo, poi ne ho fatti per tutti i giorni, per molti giorni, a volte anche due articoli al giorno. Ma il problema è di una semplicità enorme: era appena nato l'Enel, la SADE, Società Adriatica di Elettricità, che doveva entrare nell'Enel, essere assorbita dall'Enel, i suoi impianti dovevano essere pagati dallo Stato e quindi la SADE aveva un interesse dimostrare che tutto l'impianto funzionava e che quindi andava pagato al prezzo, il prezzo importante che la SADE chiedeva all'Enel, all'ente di Stato per l'energia elettrica. Si va avanti, ma la frattura tra passato e presente non è ancora saldata. A Derto, per esempio, i problemi non mancano. Sentiamo per concludere Mauro Corona. L'unica cosa rimasta è i non servizi. Noi siamo rimasti come 50 anni fa, non c'è un tabacchino, una macelleria, un frutta e verdura, un giornalaio, non c'è niente. C'è l'alimentare, sì, c'è un pullman che porta i nostri bambini la mattina alle 6:30 a Lungarone, lì prendono un treno anche d'inverno e vanno a Belluno a studiare, la sera tornano in treno, ripigliano il pullman. Mi dica come arrivano a casa sti bambini. Bisogna fare scuole dove non ce ne sono, anche per un solo allievo. Ed è tutto per questo speciale, ancora un saluto da Dario Ceccarelli. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.